perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Oggi Trump firma due ordini sul commercio, ma non è ancora il momento dei dazi. Una guerra del commercio non farebbe bene a nessuno, dice il ministro Calenda. Le minacce del protezionismo sono senza precedenti, dicono gli industriali dei paesi G7. Confcommercio rivede le stime sulla crescita, stagnazione nel 2018 e piccole imprese senza credito. Oggi dati sull'inflazione, calo in marzo. Omicidio di Alatri, questa mattina gli interrogatori di convalida per i fermati, fermi, convalidati, domani i funerali di Emanuele. Calcio dopo la pausa per la nazionale, riparte la Serie A, domani in campo Sassuolo, Lazio e Roma Empoli, ma i riflettori sono per Napoli, Juve di domenica sera. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. C'è anche la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta, www.facebook.com/effettogiorno, in una giornata particolare perché salutiamo l'ultimo giorno di lavoro con noi di Matteo Ramelli, che ci ha accompagnato negli ultimi mesi, un ottimo collega che esaurisce per il momento il suo contratto e speriamo di rivederlo presto. Iniziamo dunque la trasmissione parlando degli Stati Uniti, al centro della scena in queste ore per due vicende. La prima riguarda l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, che secondo il Wall Street Journal avrebbe detto a FBI, alle commissioni parlamentari che indagano su Russia Gate, di essere disponibile a testimoniare in cambio dell'immunità. Flynn era stato costretto a dimettersi per aver nascosto al vicepresidente Mike Pence di aver discusso con l'ambasciatore russo negli Stati Uniti delle sanzioni americane prima dell'insediamento di Trump. Ma l'altro tema, quello in primo piano in queste ore, è quello dei dazi, è quello che ci interessa se vogliamo più direttamente in queste ore. Iniziamo da qua. Una revisione dei rapporti commerciali degli Stati Uniti con ogni paese e un rafforzamento delle regole antidumping sono gli obiettivi dei due ordini esecutivi sul commercio che Donald Trump firmerà oggi. Dai risultati sarà possibile capire quanto siano fondati i timori sull'introduzione di dazi punitivi su una serie di prodotti europei che ha fatto scattare in Europa una vera e propria levata di scudi. La qualità non ha frontiere, ha commentato il premier Paolo Gentiloni. La chiusura fa male, gli fa eco Matteo Renzi, che punta il dito contro i Salvini, i Grillo e i protezionisti italiani che ora, scrive, se ne stanno zitti. Il ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel intanto invita l'Unione Europea a prendere in considerazione un ricorso al WTO per l'ipotesi di Washington di imporre dazi antidumping sull'acciaio importato dall'Europa. Sui dazi punitivi contro i prodotti europei, il direttore della Camera di Commercio americana in Italia, Simone Crolla, invita alla cautela. Questa è una guerra, tra virgolette, guerra commerciale che parte da una diatriba sulla carne importata dagli Stati Uniti in Europa che comincia nel 1999 e l'ultimo atto di questo processo è avvenuto sotto l'amministrazione Obama, è una ferita aperta insomma da oltre 20 anni e quindi probabilmente è ancora, come dire, a livello di schermaglia diplomatica, insomma. Vedremo quando questo studio sui vari accordi commerciali in essere tra Europa e Stati Uniti verrà concluso da parte dello USTR e da lì poi si capirà che cosa succederà. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tema che inevitabilmente entra anche nel business, nei discorsi emersi dal Business Summit organizzato da Confindustria, cos'è, una sorta di G7 degli industriali, ne sta seguendo i lavori Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Organizzazioni imprenditoriali del G7 che lanciano allora un messaggio preciso in vista del G7 dei capi di Stato e di Governo che si ritroveranno a fine maggio nel vertice di Taormina. Priorità la difesa del libero scambio perché i mercati aperti, viene spiegato nel documento finale, rappresentano da una parte la base della crescita e dello sviluppo mondiale e dall'altra la difesa di una società con meno disuguaglianze. Sentiamo su questo allora il presidente di Confindustria Boccia. Libero scambio, il commercio, la lotta ai protezionismi, l'invito al libero scambio non è una questione categoriale che poniamo all'attenzione dei nostri governi. È un'idea di società, una società che abbiamo inteso inclusiva e aperta, una società che sappiamo che solo grazie alla crescita economica può combattere diseguaglianze e povertà. Bisogna cavalcare ansietà ma individuare soluzioni nell'interesse di tutti, ha detto ancora Boccia sul capitolo dazi e le minacce protezionistiche di Trump. Sul libero mercato non ci possono essere ambiguità, ha detto quindi il Presidente del Consiglio Gentiloni, ospite dei lavori in Confindustria. Un eventuale scontro Stati Uniti-Europa sarebbe pericoloso, ha aggiunto il Ministro dello Sviluppo Economico Calenda. Sentiamo le sue parole. Qualunque, diciamo, scontro commerciale tra Stati Uniti e Europa è pericoloso non solo per le nostre economie, ma anche per la tenuta della governance della globalizzazione, e rischia di avere l'effetto opposto a quello che i cittadini ci chiedono, cioè di riequilibrarla nel senso di proteggere noi, che abbiamo standard molto elevati, che siamo in economia di mercato, da chi fa concorrenza sleale. La governance del commercio è minacciata da tendenze protezioniste senza precedenti, avvertono infine gli industriali riuniti qui a Roma del G7. Tutto, linea allo studio. E grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. È un tema questo che rimbalza anche a Cernobbio, dove si sta svolgendo il forum di Confcommercio, dal quale però emergono anche dei dati e delle previsioni sulla crescita che non sono per nulla confortanti. C'è la nostra inviata Valentina Furlanetto. La Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. In effetti quello che è stato ventilato dagli Stati Uniti che riguarda i dazi e alcuni prodotti italiani è arrivato anche qui a Cernobbio, sulle sponde del lago di Como. I dazi sono un danno per chi li subisce, ma anche per chi li impone, ha detto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli questa mattina in riferimento appunto a questo annuncio. Sentiamo. Noi siamo gli eredi della tradizione dei mercanti italiani e di Marco Polo, quindi noi crediamo nel principio della libertà del commercio e crediamo anche nella forza della qualità del Made in Italy, e quindi noi riteniamo che sia un grave danno per chi mette i dazi e anche per chi li subisce. Certamente mi preoccupa e mi auguro che sia soltanto un annuncio. Per quanto riguarda l'economia italiana, che la Confcommercio vede in crescita dell'1,1% quest'anno e dello 0,8% il prossimo anno, il timore di Sangalli è che, finita la fase che lui ha definito di cortisone di Mario Draghi sull'economia, si passi a una stagnazione. Per le imprese poi il credito bancario continua a ridursi, con una perdita rispetto al 2011 di quasi 120 miliardi di euro. Per costruire una crescita robusta e duratura occorre, ha detto Sangalli, scartare un conforto l'ipotesi di un aumento dell'IVA, abbandonare interventi spot come i bonus e proseguire con le riforme, in particolare ridurre la pressione fiscale che ora è ferma al 43%. Domani vedremo dal Premier Paolo Gentiloni, che interverrà qui a Cernobbio, se queste richieste di Confcommercio verranno in parte accolte. Per ora è tutto. Grazie dunque a Valentina Furlanetto anche per questo aggiornamento, e all'ascoltatore che ci chiede, che ci dice via WhatsApp, perché non spiegate che quello che sta facendo Trump è solo una reazione ad un inadempimento della Commissione Europea. L'abbiamo fatto ieri da questi microfoni in effetto giorno con il servizio della collega Laura Cavestri, che l'ha spiegato molto bene. L'abbiamo fatto stamattina anche in GR24 con la spiegazione che ne ha dato Luigi Scordamaglia, il presidente di Federalimentare. Ovviamente continuiamo a farlo, probabilmente torneremo a farlo anche oggi in Focus Economia, quindi la spiegazione l'abbiamo data, Radio 24 l'ha data abbastanza chiaramente. Detto ciò, resta la preoccupazione per una politica tendenzialmente protezionistica. Oggi però, a proposito di appuntamenti internazionali, c'è anche il G7 della cultura a Firenze, c'è la nostra inviata Teresa Trillò. Teresa, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Qui a Firenze si è appena concluso il primo G7 Cultura, che ha riunito qui in Italia i ministri dei 7 paesi più industrializzati del mondo in vista del G7 di Taormina, che si svolgerà a maggio. I ministri dei beni culturali hanno firmato la dichiarazione di Firenze per la difesa del patrimonio culturale, che è minacciato tra l'altro da terrorismo e ISIS, perché, ha detto il ministro Enrico Franceschini, è simbolo di diversità. Oggi infatti il patrimonio culturale non è bombardato casualmente come durante la Seconda Guerra Mondiale, ha detto Franceschini, ma è colpito volutamente. Ma la cultura però è dialogo e può diffondere anche pace e cambiamenti, e per questo Franceschini lancia l'idea di un Erasmus della cultura sulla falsa riga dell'Erasmus per gli studenti europei che vanno a studiare per un anno in un altro paese. Sentiamo Franceschini e poi la linea torna allo studio. La collega francese e la collega tedesca abbiamo individuato uno spazio di lavoro che è l'idea di un Erasmus cultura. Avere nel settore della cultura la possibilità di scambi permanenti tra musei, istituzioni culturali, teatri, musica, davvero può essere l'occasione di costruire ancora di più una cittadinanza. Insomma, ci sono molte cose da fare e penso che le faremo molto volentieri insieme. Siamo alla cronaca adesso con gli aggiornamenti sulla vicenda di Alatri. Convalidato il fermo di Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, i due giovani arrestati per l'omicidio di Emanuele Morganti, il giovane massacrato durante un pestaggio nella notte tra venerdì e sabato scorsi ad Alatri, emessa l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La decisione è stata presa dal GIP del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, al termine dell'interrogatorio a Regina Coeli, durante il quale i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'accusa è di omicidio volontario aggravato. L'inchiesta intanto procede. Indagati con l'accusa di rissa sono infatti anche Franco Castagnacci, padre di Mario, e i quattro addetti alla vigilanza della discoteca Miro di Alatri. E ieri l'autopsia di Emanuele Morganti è durata quasi 7 ore. Caute le conclusioni del medico legale Saverio Potenza dell'Università di Tor Vergata. Non vi è infatti ancora certezza che il decesso sia stato provocato da un'arma impropria o dalla caduta del giovane sul montante posteriore di una vettura parcheggiata davanti alla discoteca. Al Policlinico Umberto I nella capitale resta intanto aperta fino alle 16 la camera ardente di Emanuele Morganti. I suoi funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa di Techiena, la frazione di Alatri, dove viveva il ragazzo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero adesso, a Mariupol, nel sud-est dell'Ucraina, il colonnello dei servizi segreti Oleksandr Karaberius è stato ucciso dall'esplosione della sua auto. Lo fanno sapere gli stessi servizi della procura, che parla di atto terroristico. Il capo dei servizi ucraini per la regione di Donetsk, Vyacheslav Abroskin, non esclude che dietro vi siano i separatisti del Donbass. Per restare all'estero andiamo in Venezuela, paese in crisi profonda, con un'inflazione che viaggia intorno all'800% e che viene, sì, avete sentito bene, 800%, che viene da anni di recessione, con un calo del PIL che nel 2016 è stato del 18,5%. In questo quadro che si fa sempre più drammatico, evidentemente il presidente Maduro riesce ad ottenere pieni poteri grazie alla Corte Suprema. A questa è dedicata l'analisi di Daniele Biacchessi. Lo stato di eccezione ha sospeso la democrazia in Venezuela. Il Tribunale Supremo del paese sudamericano ha nei fatti esautorato il sistema parlamentare, attribuendo tutti i poteri al presidente Nicolás Maduro. Per i partiti di opposizione come il MUD, Mesa della Unità Democratica, si tratta di un vero e proprio colpo di Stato. L'ultima mossa del regime blocca il processo di dialogo auspicato da tempo dalla Chiesa Cattolica. In sostanza, tutte le competenze parlamentari saranno esercitate dal Tribunale Supremo oppure dall'organo che la Corte designerà a breve. I giudici costituzionali restano l'arma più fedele alla dittatura, perché vennero nominati dopo la disfatta elettorale del 2015. Sono gli stessi che hanno bocciato la richiesta di referendum per la revoca di Maduro, annullato gran parte delle leggi votate dal Parlamento. Sono quelli che oggi lasciano i deputati senza più protezioni, senza immunità, in balia dei giudici militari che li potrebbero colpire e processare da un momento all'altro. Intanto, nella difficile transizione del dopo Chavez, il Venezuela sprofonda nel baratro. Alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, cambiamo dunque argomento, si inaugura il museo ferroviario di Pietrarsa. Abbiamo in linea con noi Laura Viggiano, che sta seguendo questa inaugurazione. Laura. Sì, buongiorno. Il presidente è andato via da poco, è arrivato a Pietrarsa a bordo del treno speciale della Presidenza della Repubblica, il capo dello Stato Sergio Mattarella, per visitare lo storico museo ferroviario, il cui restauro è stato recentemente completato con un investimento complessivo di circa 15 milioni. Mattarella ha visto i padiglioni che conservano locomotive e carrozze d'epoca, ha viaggiato a bordo della Bayard, la locomotiva a vapore costruita come prima dotazione della ferrovia Napoli-Portici e che è protagonista del viaggio multimediale realizzato per far rivivere la storia della nascita della ferrovia in Italia. Il presidente è rimasto colpito da alcune foto storiche che ritraggono anche suo padre. Il capo dello Stato ha assistito alla cerimonia di inaugurazione, è stato accolto dalle autorità locali e dai vertici di Ferrovie e l'amministratore delegato Renato Mazzoncini, che guardando al futuro ha sottolineato l'intento di FS di essere player internazionale, del presidente della fondazione Mauro Moretti, che ha ricordato invece la valenza di Pietrarsa come una Silicon Valley italiana del 1800. Una visita lampo seguita dai giornalisti solo attraverso un video a causa di un rigido protocollo, alta l'attenzione delle forze dell'ordine. All'esterno del museo si è registrata la presenza di un gruppo di disoccupati, ma nessun disordine. E grazie dunque a Laura Viggiano per questo aggiornamento da Pietrarsa. Siamo allo sport e voglio rispondere subito all'ascoltatore che ci scrive: non l'abbiamo messo nei titoli, ma certo che è una notizia che a Miami Fognini è in semifinale e giocherà contro Nadal sognando la finale. Carlo Genta. Sì, una notizia di ieri peraltro. Sì, di ieri, Fognini, certo. In semifinale c'era già ieri, di cui abbiamo pure parlato, e adesso non ci resta che aspettare la partita. Certo. È una notiziona, tra l'altro Fognini è uno che insomma diverse volte è riuscito a battere l'ex re del tennis mondiale, chissà che non succeda anche qui, sarebbe meraviglioso una finale Fognini Federer, Per nasconderlo, no? Per questo Master Mill. Niente male. Senti, invece sul fronte del calcio, siamo tutti con i riflettori puntati, no? Su domenica sera. Domenica sera è una lunga attesa, quella che ci porta domenica sera, una lunga attesa per un campionato che ritorna dopo la sosta della nazionale, che ha due anticipi come grande classico, le due romane in campo, la Lazio alle 18 sul campo del Sassuolo e la Roma alle 20:45 di sabato in casa contro l'Empoli. Poi gioca il Torino, andiamo in ordine cronologico, gioca il Torino domenica alle 12:30 contro l'Udinese. Domenica pomeriggio alle 15 appunto scatta l'attesa: Fiorentina-Bologna, Chievo-Crotone, Genoa-Atalanta, Palermo-Cagliari, Pescara-Milan e finalmente 20:45 Napoli-Juventus. Cioè, abbiamo anche un posticipo del lunedì che sarà Inter-Sampdoria. Dunque questo il programma, il piano partita, sì, per il weekend in cui ritorna. E appunto domenica sera con un Napoli-Juventus, con tutto quello che ne consegue, a partire dal sindaco De Magistris, no, che oggi dice: per me Higuaín è come Salvini. Quindi, niente male. Questa non è male. Ma ne abbiamo sentiti davvero di tutti i colori, sì, anche un po' sopra le righe e anche soprattutto anche sul fronte politico. Simone, decisamente. Grazie a Carlo Genta, che ritroviamo ovviamente alle 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi inizia il nostro giro per l'Italia. Vi ricordo che siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, così come sulla pagina Facebook di Radio 24, una diretta video. Ci potete sempre scrivere al 349-238-6666. A tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati di dazi, di Trump e della preoccupazione che arriva dall'Europa, tanto dagli industriali quanto appunto dai governi. Abbiamo parlato di Confcommercio che rivede le stime sulla crescita, dell'omicidio di Alatri, c'è stata la convalida dei fermi per le due persone accusate dell'omicidio di Emanuele, e poi di calcio, oltre che, come avete sentito, naturalmente anche di tennis. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e riprendiamo dalle zone del TAP, del Trans Adriatic Pipeline, ossia appunto il gasdotto che dovrebbe arrivare sulla spiaggia di Melendugno. Si sono fermati i lavori, ve l'abbiamo raccontato ieri, nell'attesa che ci fosse un ricambio di polizia, ma nel frattempo nasce una nuova piccola, ma nemmeno troppo piccola, polemica, perché noi da giorni, e l'ultima volta ieri a 24 mattino, sentiamo il presidente della regione Michele Emiliano che dice questa cosa qua. Sin dal 2013 il sindaco di Squinzano chiese di ottenere il gasdotto lì, perché in quel modo avrebbero potuto decarbonizzare la centrale Enel di Brindisi. Cosimo Miccoli è il sindaco di Squinzano, appunto, e oggi ha fatto una smentita anche piuttosto brutale a queste parole di Emiliano, no? Buongiorno. Salve, buongiorno. No, smentita no, nel senso che quell'atto amministrativo, cioè la deliberazione di consiglio comunale votata all'unanimità, dice appunto questo: il tema è la decarbonizzazione. Noi TAP non la vogliamo, se proprio devono farcela vorremmo intervenire in questo processo particolarmente importante per l'Italia che attraverso la costruzione dell'ennesimo insediamento produttivo di energia elettrica noi vorremmo sì. che venisse decarbonizzata la centrale. No, perché quello che dice il presidente della regione da qualche giorno è Squinzano è pronto a prendersi TAP, ma in realtà lei dice no, noi non ce la vogliamo alla fine. No, nel senso che noi non lo vogliamo, noi siamo intervenuti in questo dibattito dicendo guardate che se proprio questa centrale si deve fare e a Melendugno non la vogliono, noi diciamo di sì. Ad una condizione che è essenziale, vabbè, ed ineludibile, improcrastinabile, e cioè che è quella comunque che preventivamente la centrale di Cerano deve essere convertita a gas. Anche perché laddove la mia comunità, il mio territorio, la parte del territorio del Nord Salento dovesse ospitare quell'approdo, sembrerebbe logico che quel gas potesse alimentare anche la centrale di Cerano, che inizialmente doveva essere alimentata a gas, a metano, e poi non se ne comprendono le ragioni, da oltre 20 anni viene alimentata invece a carbone, e che gli istituti di medicina, ARPA, ASL, come ci dicono che le morti sono aumentate, specialmente negli ultimi anni i dati quali sono Miccoli, i dati che vi fornisce l'ARPA su questo istituto superiore questo ce l'ha detto, cioè quali siano le fonti ce l'ha detto, mi interessano proprio i dati nel senso che c'è stato un sensibile aumento delle neoplasie a fegato, polmoni, vescica in particolare, ma anche le altre, va bene? E siccome noi ci troviamo da quella centrale ad una 15 chilometri in linea d'aria, e rispetto anche a dei venti che soffiano per la maggior parte dell'anno di tramontana, siamo completamente investiti tutto il giorno da quelli che sono i pregiudizi di quella centrale. Allora rispetto ad una cosa sensata che io sì. farei per la mia comunità, ma anche per tutto il Salento, perché la centrale di Cerano, sì. grande quant'è, la più grande d'Europa, è logico che non recherebbe pregiudizi soltanto al comune di Squinzano, ma anche al capoluogo di provincia che dista da Squinzano soltanto 10 chilometri, sì. anche alla città, al capoluogo di provincia di Brindisi. Anche quindi lei in sostanza, Miccoli dice, vabbè, io alla fine tutto sommato TAP me lo prenderei, se però il tutto condizionato alla, sì. come dire, alla conversione a gas perché di questa centrale a carbone. Dice non è che siamo contenti. Dice non è che siamo contenti di prendercela, no. insomma, come giusto. Emiliano sembra aver fatto passare, però voi, per cercare di togliere questo carbone da Cerano e non c'è mai riuscito nessuno. Ora forse io mi sono convinto che per togliere il carbone da Cerano qualcos'altro dobbiamo prendersela. Io mi prenderei qualcosa che sicuramente fa meno male sì. male alla comunità di Squinzano, ma tutta quanta quella, non dico del meridione, lo tratta come una sorta di male minore, lo tratta il male minore, questo è l'epiteto giusto, bravo, il male minore. La ringrazio, grazie Cosimo Miccoli, sindaco di Squinzano. Appunto, la sua storia ci aveva stupito, ci aveva un po' colpito, no? Perché in realtà le frasi che aveva rilasciato in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno erano un po' più dure, no? Dice il governatore non sa che cosa dice, però come avete sentito, insomma, ecco, Squinzano se lo prenderebbe, ma come male minore. Ora, una storia che viene raccontata dal Corriere della Sera questa mattina da Marco Imarisio e che ci ha incuriosito e riguarda due comuni delle Marche. Si tratta di Sassofeltrio e Monte Copiolo. Sono due piccoli comuni, parliamo di comuni di 1500-1200 abitanti circa. 10 anni fa hanno votato per l'annessione all'Emilia-Romagna. Però questa annessione, diciamo, questo passaggio all'Emilia-Romagna non è mai avvenuto. Alfonso Lattanzi è sindaco di Monte Copiolo. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a lei. Da quanto è sindaco lei? Radioascoltatore. Da quanto è sindaco lei, tra l'altro? Io sono al secondo mandato, 8 anni. In sostanza la vostra richiesta è questa, di portare a compimento questo referendum col quale avete chiesto appunto l'annessione all'Emilia Romagna, no? Sì. Siamo stati preceduti da altri 7 comuni della Valle Marecchia, dalla quale storicamente, amministrativamente, dal punto di vista dei servizi siamo, diciamo, tra virgolette dipendenti. Sì. il ritardo di allora del referendum di 6 mesi ci ha portato a questa situazione che sì. Cercavo dei diciamo degli aggettivi, delle cose per definirla. Che non vi piace, diciamo che non vi piace, questa situazione che non vi piace. Senta, sindaco, ma come mai è tutto fermo? È tutto fermo perché l'arroganza di certi personaggi ha impedito che questa pratica andasse avanti. Francamente, lei ha detto che non ci piace, io invece, anche se sono il sindaco, vorrei tenermi cose, diciamo, basso profilo nella polemica, però comunque in questo momento non la si può che definire vergognosa. Allora, noi abbiamo fatto una procedura assolutamente costituzionalmente ineccepibile. Sì. E le Marche, attenzione, non vorrei generalizzare, non è la regione Marche, alcuni personaggi della regione Marche che avevano titolo la possibilità di fare e di cercare di impedire questo ulteriore passaggio, le hanno provate tutte, compreso comportamenti che non hanno niente di democratico e soprattutto anche dal punto di vista normativo non sono certo immuni da critiche. Sì. Io le faccio solo riferimento a una sentenza della Cassazione che dice la norma non mi vada troppo sul tecnico. È una cosa voglio dire che è la question. Perché l'articolo della Costituzione dice, sentiti i pareri della regione, sì. La regione sino ad oggi ha detto che non dava il parere motivandolo con il fatto quindi se ho capito Lattanzi, questo passaggio non avviene perché la regione non ha ancora dato il parere? Non avviene anche no, allora non è solo colpa di queste persone della Regione Marche, è anche colpa che al governo per quanto riguarda i ministeri che si sono succeduti, i ministri degli interni, e alle Camere purtroppo ci hanno dormito sopra, diciamo così, perché in realtà con le sentenze e con altri casi che si sono succeduti, sì. Uno per tutti, il comune di Lamon, no? Sì. Si poteva chiaramente, il Parlamento poteva deliberare e dare un parere senza aspettare ormai un parere della Regione Marche, che era la regione precedente. Allora l'Emilia Romagna ha detto sì 2 volte. E adesso ci vuole il parere della Regione Marche ed eventualmente il parere del Parlamento, e questi pareri non sono ancora arrivati e voi siete là da 10 anni in attesa di diventare un comune dell'Emilia Romagna. Per questo riguarda voi e riguarda anche il comune di Sassofeltro. Grazie Alfonso Lattanzi, sindaco di Montecopiolo. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. Di certo sono tanti i comuni che fanno i referendum per passare in un'altra regione dove trovano situazioni evidentemente più favorevoli. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, come sempre, mentre siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, e potete continuare a scriverci al 349-238-6666. E poi dopo i mercati riprendiamo il nostro giro per l'Italia, ancora più o meno nelle Marche, perché resteremo nel nostro giro per l'Italia nelle Marche, perché parleremo di terremoto. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: oggi Trump firma 2 ordini sul commercio, ma non sono ancora quelli dei dazi. Una guerra commerciale non farebbe bene a nessuno, dice il ministro Calenda. Su questo, sui rischi del protezionismo, si schierano anche gli industriali dei paesi G7 riuniti oggi a Roma nella sede di Confindustria. Confcommercio rivede le stime sulla crescita italiana. Stagnazione nel 2018. 2018 e piccole imprese senza credito. Oggi tra l'altro sono arrivati i dati sull'inflazione italiana, c'è un calo in marzo e c'è un calo anche a livello europeo, in Europa si ferma all'1,5%. Omicidio di Alatri, questa mattina gli interrogatori di Convalida per i fermati, Convalida che è arrivata, domani i funerali di Emanuele. Il calcio, dopo la pausa per la nazionale riparte la Serie A, domani in campo Sassuolo, Lazio, Roma, Empoli, ma i riflettori sono per Napoli, Juve di domenica sera alla borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, riprendiamo dunque il nostro giro per l'Italia e, come si diceva, torniamo a puntare l'attenzione sul terremoto, sui luoghi colpiti dal terremoto. A dire la verità, quest'oggi non lo facciamo solamente noi, perché come vi abbiamo raccontato nella prima parte della trasmissione è in corso il G7 della cultura a Firenze. Nella prima parte della trasmissione vi abbiamo fatto sentire di questo documento che è stato firmato dai rappresentanti della cultura, dei ministri della cultura dei paesi del G7, vi abbiamo fatto sentire anche di questa proposta arrivata dal ministro Franceschini, così come da altri ministri europei, per una sorta di Erasmus della cultura. Ma c'è di più, c'è stato un intervento importante oggi, perché un intervento che ha fatto sì che venisse rappresentata la situazione di tutta una serie di aree colpite appunto dal sisma in una platea internazionale. È arrivata la voce di Alessandro Del Priori, che è il sindaco di Matelica, siamo in provincia di Macerata, un comune marchigiano colpito e anzi devastato dal terremoto. Parla Del Priori di mesi difficilissimi e di uno sciame sismico che ancora dura. Avremo anche un ospite in diretta dalle Marche, in una situazione probabilmente meno difficile di quella di Matelica, però prima vogliamo farvi sentire proprio la voce di Del Priori, raccolta dalla nostra inviata Teresa Trillo. Servono risorse, serve lavoro, ma soprattutto non dimenticateci. Significa venite nelle nostre zone, venite a vedere e non dimenticate soprattutto il patrimonio culturale, perché per noi significava economia, significava turismo, significava commercio, e quindi dobbiamo ricostruirlo, perché quello dà senso alla ricostruzione più generale. Significa dare speranza alle persone che possano rivivere quello che stavano vivendo fino al 24 agosto e al 26 e 30 ottobre. Significa soprattutto capire che per noi il patrimonio non è un vezzo, non è un museo, è l'identità del nostro territorio. Qual è la situazione del patrimonio culturale nei paesi terremotati? È ancora un po' difficile, nel senso che il lavoro che è stato fatto è stato grandissimo per lo spostamento, la messa in sicurezza delle opere mobili, che ancora deve comunque terminare. Si parla di circa 12.000 oggetti già spostati, ma il numero veramente è straordinariamente più alto. Quello che manca oggi è la messa in sicurezza del patrimonio immobile, quindi affreschi, portoni, rosoni, finestre, mostre d'altare, stucchi, che ancora sono sotto le macerie, in qualche caso senza tetto, quindi ci piove dentro, nelle chiese. Insomma, questo è un momento difficile, perché dobbiamo intervenire subito, altrimenti rischiamo di perdere tutto. E per noi il patrimonio veramente era anche quello, era quello immobile, cioè la pieve, la piccola chiesa coperta da affreschi, la grande mostra d'altare cinquecentesca, insomma quello va salvato. Qual è una soluzione? Costruire una protezione civile dei beni culturali, ossia in un momento di calamità ovviamente arriva la protezione civile che dice ai sindaci, alle istituzioni cosa fare per mettere in sicurezza le persone, contemporaneamente arriva anche la squadra che dice cosa fare per mettere in sicurezza il patrimonio culturale, oppure può intervenire da sola con le risorse tipiche, insomma, dell'emergenza e protezione civile. Sarebbe un fatto di civiltà che per la prima volta in Italia pone il patrimonio al centro. Restiamo sempre nelle Marche e sempre nella stessa provincia e ci spostiamo a Recanati. Siamo in linea con il sindaco Francesco Fiordomo. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, i danni chiaramente non sono stati gli stessi di Matelica, ma ci sono stati comunque danni gravi. Recanati, la città natale di Giacomo Leopardi, è stato danneggiato anche il palazzo natale, la casa natale di Leopardi, una profonda fessura si è creata, no, nel colle dell'infinito, quello descritto appunto dallo stesso Leopardi. E come vanno le cose, Fiordomo? Siamo in grande attività, in grande fermento per il colle dell'infinito. C'è un progetto di recupero complessivo, di restyling, che è stato finanziato dai Ministeri dell'Ambiente e della Cultura. E le Marche hanno reagito con grande determinazione. Sentivo il collega Del Priori, che è un sindaco bravo, dinamico e anche uno storico dell'arte, quindi ha una particolare sensibilità per il settore dei beni culturali. Io penso che oggi debba passare questo messaggio: le Marche sono vive, le Marche sono in piena attività, stiamo predisponendo una programmazione estiva di grande livello, le Marche sono sicure, sono già in piedi. Penso al Colle dell'Infinito, abbiamo avuto dei problemi, ma il Colle dell'Infinito è stato sempre visitabile, ancora oggi può essere calpestato in assoluta sicurezza, in assoluta tranquillità, così come si può visitare Casa Leopardi. Quindi è necessario questo ragionamento rispetto alla sicurezza e al fatto che nelle Marche si può venire con assoluta tranquillità. Fiordomo, noi quello che vogliamo fare con questa operazione, con il nostro far ascoltare, no, le vostre voci dal territorio, è anche questo: trasmettere agli ascoltatori che eventualmente stessero ascoltando queste parti la sensazione e anche la certezza, il fatto che molti luoghi colpiti solo marginalmente dal terremoto sono in realtà dei luoghi sicuri nei quali si può andare tranquillamente e che tra l'altro hanno anche bisogno di un turismo che stenta un po' proprio per le paure che si sono accumulate e, se volete, anche per un po' di cialtronaggine nostra, di noi giornalisti, della stampa, di come abbiamo trattato genericamente le cose quando poi i veri danni si accumulavano in singoli punti e in singole zone. Io sono un piccolo giornalista di periferia, la mia professione, quindi devo dire che da questo punto di vista ci sono alcuni input mediatici che molto spesso rischiano di danneggiare un territorio. Il nostro è un territorio che fa della bellezza, del giacimento culturale, dell'affidabilità e dell'accoglienza le proprie caratteristiche, ma sono caratteristiche non soltanto culturali e sociali, sono caratteristiche economiche, perché grazie alla genialità noi abbiamo costruito un tessuto produttivo che ancora oggi è competitivo a livello mondiale. Quindi noi possiamo offrire Casa Leopardi, possiamo offrire il Santuario di Loreto, la stagione lirica dello Sferisterio, quindi in qualche modo deve passare questo messaggio, perché stiamo vivendo un momento difficile per il crollo del turismo, che non riguarda soltanto le aree colpite maggiormente dal terremoto, ma riguarda tutta la regione Marche, dal nord al sud, i grandi centri come i piccoli centri. Quindi bisogna rilanciare l'immagine di una regione che offre tantissimo e offre in piena sicurezza. Di una regione, naturalmente non solamente della vostra regione, ma anche di Umbria, Abruzzo, di quella parte del Lazio che è stata ferita dal sisma. Grazie a Francesco Fiordomo, che è il sindaco di Recanati, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti come sempre. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30.